Salvo, ci caliamo alla traplanga qua. Va bene. Dimmi, vai, vai. A 90 gradi fino a 180. Minchia. Va bene. Ok, stop, stop. Salvo. Salvo. Salvo, mi senti? Un attimo. Un attimo, sto parlando con Leonardo. Un minuto su. Danilo. Dimmi. Leonardo, ci stop. Ah, segnati il tuo tempo, tempo grande, a sinistra della porta. Seconda flange, giusto? Sì. Va bene. Siamo. Dove siamo? Vai, vai. Ma come? CCV. Ma sì, ma me non succede, compagno. La voglia. Va bene, ma l'ultimo giro. Vabbè, dopo si chiama dall'altra parte. Questa flange ce l'hai completa, no? La flange, dico, la ce l'hai finita. Andiamo CCV, segna un pezzo grosso a 90 gradi a sinistra della porta. Ma sempre sulla seconda? Ok. Salvo. Dimmi. Segna 3-4 punti, 45 gradi a sinistra della porta, poi a 2 sopra la porta. Ah no, 2 è la stella. Vado? Vabbè, come prima sta flanca c'è un limite, non andiamo a casa. Bravo, capisci? Lì ma a casa, perché mi sono rotto i coglioni, guarda. Sì, sì. Fino su, in quattro, fino su. In quattro, siamo lì, no? L'ultima, le altre sono buone. Scusa, com'è l'ultima flancia? Siamo arrivati alla seconda. Ah, la seconda flancia. Va bene. Allora, adesso l'ultima macchia dove? Guarda, mi hai visto che sono maratonato. Pare, adesso... Dimmi. Vai, vai, vai. Falle girare sulle zia al contrario, come le faccio girare io. Dico, falle girare sulle zia al contrario, come facevo io. E studiamo questa volta a Davide, però. Ma sembra che a volte Davide. Minchia. Porca puttana. Aspetta che hanno messo sul terreno, ma aspetta un attimo. Bene così. Nemmeno tutto. Gira ancora il cibo. Scusa, ma perché la salire i conti a queste? Sì, ma il conto non te la sonerà a queste, però. Va bene. Ci sentite? Tutte e due? Va bene, perfetto. Chi sei, Luca? Avanti! Chi è? Chi è? Avanti! Attento, Luca manicomio! Ciao, man! Non ti copio! Che è giuda? Avanti! Chi è? Avanti. Devo subito. Eh? Non sono in macchina, sono a casa. No, Luca ha detto che sto venendo. Era morto adesso. Pittina. E te bada, e te bada. Camminava a 25, a numero 3, alla terza marcia. Ma da 15 non si puglia. Boh. E come mai? Non lo so, devo controllare le batterie, ho fatto la ricarica oggi, da mezzogiorno. Claudio. 5:30, sono cariche. L'ho bruciata, andavo al supermercato. Oui. Cavolo. Non c'è nessuno su 23. Avevo fatto la carica bene. Sempre a 15, non è a 25, a 25 è più veloce. Strano, molto strano. Qualche problema c'è allora? Sto pensando che non si ci sia qualche batteria, c'è staccata. Può essere. Ah, boh, mi ha ammazzato Donino lì, non me ne intendo io. Cosa? Nella moto a batteria che c'ho. Deve camminare a numero 3, alla terza marcia, diciamo. a 25. Invece la metà 3 va lo stesso a 15, in seconda marcia arrivi a 15. Però io lo metto al terzo quando c'è il rettilineo che cammina più veloce, va sempre a 15, anche la velocità me ne accorgo che è di meno. Di cosa stiamo parlando? Guarda che sicuramente non ti sta andando una batteria. Io pensavo tu, che becca che batteria, che mi si è staccata, no? Anche un bel ultimo, bicicletta di chi si voce, si va alla rete, magari non era stretta bene. Domani le controllo a vedere, se no è un bel strano. Ti te ne recupera da posto d'ora, tranquillamente, a 25. Boh, farà già stato, era a posto. E oggi mi fa... Quanti ore c'ha di caricaggio grazie alla batteria? Dalle 3 alle 5 ore. Io l'ho attaccata a mezzogiorno e mezzo e l'ho staccata alle 5 e mezzo. Passate pure. Però mi segna carica, le batterie segna carica. Perché l'ho usata andare stasse poco fa sul mercato, tanto per provarla, a vedere. E il rettilineo ho messo la terza, è sempre a 15 anni. E controlla la batteria, però dai 3 a 5 ore, come hai detto tu, è poco, La devi lasciare almeno quelle 6-7 ore. No, che me lo segna quando è carica la batteria, nel quadro, no, nel display. Mi segna cariche le batterie, tutte e tre. È da vedere, grazie, non so cosa dirti, perché quella di mio cognato lo stesso c'ha le batterie come ce le hai tu, e le lascia almeno quelle 7-8 ore di ricarica, anche se è carica, se li segna a carica, le lascia sempre quelle 7-8 ore. Ma mi sembra strano, perché io la ricarica l'ho fatto la settimana scorsa. Stai una gatta 8 ore e più, perché tanto automaticamente una volta sono cariche si bloccano quel carica batterie, è come il cellulare, anche se lo lasci attaccato non carica più, capito? È da vedere, tu ne sei qualcosa? Sì, tu state parlando, boh. C'è la moto, vuole moto a batteria? No, non va intento, moto a batteria. Se fa questo difetto che funziona con la batteria, sarà la batteria a mezzo partita. Sì, la recupera da viaggio un mese che ha molto. Ci ha messo mezzo e mezzo a arrivare. È un mesetto che ce l'ho da neanche pure. Allora mi hanno dato di volere una scarcina. Boh? Deve essere niente di strano che ce n'è una mezzo partita. Anche a volte danno le macchine nuove di zecca e c'è qualche difettosa, c'è quella che è ben riuscita, va sempre bene, e quella che va male, capito? Luca, si possono controllare le batterie con il test. Sono Luca, io sono Tonino. Ma c'era anche Luca. E col test non si possono controllare se sono cariche, buone. Perché si può controllare col tester? Si può controllare. Ma scusa un attimo, ma non è garanzia che sta moto? Questo basta telefonare ed invio, no? Già lo sa. Non è garanzia questa moto, basta telefonare e diglielo. Ha già provato e oggi non mi rispondeva nessuno. C'era la linea, sempre occupata. Non hanno travagliato, oggi è lunedì. In Gran Bretagna non lo so se lunedì quelli lavorano. Domani ci provo, mi mando un'email. Scusa, se ve la vai, cioè la moto nuova e già non funziona la batteria. Come è questa cosa? No, se la batteria già me la mandano, perché io glielo dico. Il coprimotore che è arrivato era un po' rotto dove andava la vitatura, la vite, e gli ho mandato le mie e me l'hanno mandato nuovo. In 3 giorni mi è arrivato, in aereo me l'hanno spedito. No, già va bene. Se sono così vuol dire già sono persone serie. Glielo dici, guardate che la batteria non sta funzionando più. Cosa devo fare? Oh Claudio. Oi. Dimmi. Oh, clà. Tony, dimmi. Ma non vedi nessuno in Kiwi, eh? Dove? Hai detto, rimani in ascolto. Ah, no, rimani in ascolto per cosa? Per Emanuele. Ma hai visto che è entrato qua. Ok. Oh, voglio fare una prova qua. Dico il difetto che mi fa. E vediamo se dalla batteria. Domani le controllo, se si è allineata da caffè di una, se mullata, boh. Non le guardate. Qua, voglio fare una prova. Mentre con l'antennino che mi hai dato sul frigorifero e col portatile metto dentro, vicino alla TV. Adesso mi senti. Però l'antennino l'avevo provato io e me lo disturbava. Prova a ver se ti sento. Provo, dai, corrigo un attimo. Capito, hai graziato. Io avrei chiamato, gliel'avrei detto. Guardate che la batteria non funziona. Questa moto c'ha da un mese. Cosa c'è di fare? Domani chiama. No, domani chiamo. E beh, mi mando l'email. Chiamo e rispondono subito. Per il coso del motore mi hanno risposto subito e mi hanno detto che già non c'era problema, che me lo spedivano. Infatti da vedredì mi è arrivato con GLS, però il pacco me l'hanno spedito via aereo. Sì, la batteria non funziona, te la fai spedire nuova, ho capito. Cazzo, ci fa un mese, vuol dire che quella batteria era già esaurita, non lo so. Evidentemente. Comunque è nel trasferzone trasportatori, a chi da voi mi mancava anche il caricabatterie, gli ho scritto anche quello e mi hanno mandato anche il caricabatterie, gli ho detto qui la moto è arrivata, tutto l'imballaggio è tutto scassinato, incrassata la ruota nella pedana, gli ho fatto le foto al pezzo che era rotto e mi manca il caricabatterie e questa cuffia del motore che è in plastica. Uno si vede un anellino rotto, non mi ha cuffia di base, ma dammi la cosa nuova. E mentre non c'era problema che me lo spediva e mi hanno spedito il tutto. Anzi, mi hanno regalato il coprimoto buono. Hai visto, quindi? Aspetta a vedere. Prova Tony, va vedendo, grazie. No, non lo sento per niente. No, e poi si sono anche scusate, la colpa sono dei trasportatori. Ma lo già senti, Gra? Prova a vedere se lo senti, perché io ancora non lo sento. Sta provando la base magnetica sul frigorifero. Ma sul frigorifero le fa interferenza, Ma va di interferenza al frigorifero? Più base di quella in ferro ne vuoi. Non fa interferenza, ce l'avevo io. Prova a vedere, io Torino, guarda se lo senti tu, Manuel. Ehi, Antonio, io ti sento, ma Claudio non lo so. Claudio, lo senti? Prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Lo senti, qua? Sì, frusciato, ma già lo sento. No, ma arrivi basso qua, Antonio. Santiago 2, 3. E adesso come mi sentite? 1, 2, 3, prova. Adesso, allora siamo 2:20. Adesso arrivi bene anche qua, Tony. Indovina dove sono? E dove l'hai messa? Sulla piastra, sul tavolo, sotto la veranda. Arrivi. Tagliati, si antenna una bomba, non vi gridi tu. Tienitela stretta. Ehi, cappa. Vabbè, poni la antenna, io. Riprendi, grazie. Ehi, io mi sono spostato e non l'ho sentita. Però già stavo uscendo. Oh, già l'ho sentito. Sì, così è. Ma c'era anche Luca, e tu che eravi nenne, sparito. Luca! Riprendi, Manuel, dai. Comunque, dove l'hai messa adesso? Nella finestra, Tony, in cucina. Boh. Vai, grazie. Sì, sicuramente vede che batteria bruciata. Boh. Arrazza di impreati. Manca rivita, come senti, sì. Boh. E vabbè, se è una batteria è già facile a cambiarla. Quante batterie c'hai? 4 o 3? No, 3 e saranno 10 larghezza, 20 lunghezza. Sono alte 15, ma 15 sono. La marca le ho viste da sotto che si legge. Che è marca buona. Boh, ma lo sai com'è? Magari ne hanno buttato un andante e due buoni. Tu adesso devi vedere, di farla scaricare del tutto e farla caricare almeno un 6 ore a vedere. Vabbè, io domani intanto glielo accendo, l'email gliela mando a vedere cosa mi dice. Mi sentite a me che ce l'ho messo l'antenna sotto la lavatrice? Vabbè, fa. Io ti sento. Magari California, tu sci? Chi è Franco? Califano, Califano. Cazzo, te ne è caduto un frigorifero? Io sono ritornato. A Califano ne è caduto un frigorifero? Io parlate però, se no mi veniva un giorno. Ciao anche a Claudio, non so che altro ci sia. Buonasera. Buonasera, ma non mi senti? Ma sto uscendo, pronto? Non lo sento, boh. È Franco che zoppo, cazzo, Franco! Franco? Già, mi senti? Franco, io ti sento, mi senti? La scala qua. Franco? Ogni tanto arrivi, a voi non arrivi, fare il zorro, vai. E ci sarà incrastata sotto lo frigorifero. Attenzione Franco, mi senti? Poi sparisce, poi riprende, Ti sento. A me mi ascolti lì? Io ti ascolto, sono Torino Kawasaki. Ma è Claudio, non lo senti? Sentivo poco fa, adesso non so perché ho spostato l'antenna anche io. Tu stai arrivando bene qua, tu lì comunque, dai. Zappa, io ti sento bene nel senso, ma Claudio è 3 ore che ti chiama e tu non rispondi. Claudio, l'hai copiato. Sì, ogni tanto lo sento, un po' sì, un po' no. Non lo so, se lui mi sente, cosa ne so qui? Ha detto che ha spostato l'antenna. Beh, non la puoi lasciare indietro l'antenna, non lo sa lui, che basta che la sposti di un metro, non intende più nulla. Adesso... Con l'antenino mi ricevi bene fuori, là, sotto la veranda. Guarda, ha parlato in due, cosa hai detto, grazie? Non lo sento io adesso, Cazzo, mi senti, sopra, ma dove è, no, con l'acqua si comprende, non è l'acqua. Stavo parlando a Franco, ultimamente. Ho detto, là, quindi con l'antenino sotto la veranda già mi sentivi bene. Sì, alla grande. E allora, 5B. Fondo scala, sì, 4B. Fondo scala. Comunque, vuole apparecchio di toglio, 25 watt. 5? 25. Ma bisogna vedere quanto sta uscendo, però. Non l'ho guardato. Ho detto, bisogna vedere quanto sta uscendo. Devi andare sul menu. Ma quale? Portate nel suo? L'altra radio, qua. Ah, quella bisogna... a darle tutta potenza. Ma sicuramente sta uscendo a tutta potenza, perché fondo scala qua. E allora già va bene, già sta uscendo. E lo lascio così, infatti. Ah, ciò stare così già va bene. Io sono modalità love. Love vuol dire 5 watt. 5 watt. E tu stai uscendo bene lo stesso. Va bene che tu anche se esci con un watt lo stesso, mi arrivi bene qua. Ma cosa ci ascoltendi? Cos'è qua? Cosa stai ascoltando? 22. Ah, ecco, adesso c'è gente, poco fa non c'era nessuno. C'è te e Bacchisi. Siamo devono essere entrati adesso perché poco fa non c'era nessuno. Sì, adesso siamo entrati. E quello è un canale riservato. Riservato? A quanto pare votano sempre certe persone, quando lo occupi a quanto pare non entra nessuno. Te ne siamo andati, tutti i cazzo sono entrati. Beh. E un canale vale l'altro. Posso andare al canale 1, posso andare al canale 40, non me ne ha fottuto. Allora non mi avevi capito, Tony. No, prima no. Adesso l'hai capito quello che ti ho detto. Ehia. Ma io sono preparato in materia. Se ti ragioni tu. Tu mi hai detto non è così, ma già è così però. Vabbè, rimaniamo qua, non c'è problema intanto. Un altro pochino poi mi preparo e me ne esco col cane, se abbia il culo al radio. Capito me. Ma. Ehia. Tanto, non è che mi interessa più di tanto, a me vado là, ma. Io beh, fare due chiacchiere, qua, là, da tre parti, però poi io mi stufo, no? E per quello non c'è, vabbè, c'è armonia, ognuno è per i cazzi suoi, vabbè, vai, grazie un altro, mi, caggiutoci. Friggendo le zucche, faggio, tosto, un po' di zucchine, fritte. Ehi, va bene. Io non lo so neanche cosa sta preparando mia moglie, Anzi adesso glielo chiedo, riprendi Manuel. Buone zucchine. E come te le vendi? Frisci o ripieno? Oh, frisci, ripieno e aggiubati. Due che si fa, due di manni. sapete qui sta dando un po' a uno, un po' all'altro, se no io non posso mai sapere che mi fidi. E niente, questo è quale frigo. Andare, vai Tony. E io ogni tanto non scherzo bene, ho sotto qualcosa, ma poi ho spento perché non mi interessa più. Beh, se la prende l'occhiello. Cos'è il cicuca là? Bruffi di chinta, qualcosa, non riusciamo a farla. Sei sentato un attimo. Oh, Graziano. Ma sono già menè. Fa a pigliare l'appuntamento dal medico. 15:33. Ma Graziano. Ma rifugio. Già sei ancora disusarrato. Da che sono avuto, le grazia? Cosa? Giornata Zulida. Quando stamattina? Tutta la mattina, guarda, per darmi l'appuntamento. Bertellina. Non mi ha risposto nessuno. Cazza Vettori. Squillava poi. Ho capito. Brava. Cazza Vettori. Grazia. Ehi. Sento, che zona muto lì? Ah, io, in casa, è il quartiere più bello della città di Sassari, il Bronx. Il Bronx, Santa Maria di Pisa. Allora, no, si chiama Bronx, non si chiama più Santa Maria di Pisa, che sta arrivato fuggì pure la Madonna. Caipita. Avanti, Manuè. In piazza Vettori, casa, Graziano. Dove gira la Bretellina, casa, allora? Sì, piazza Vettori, dove facevano una volta le feste, il mercato, qualche bancarella mettevano. Ah, non ne vado in più. Ma è vicino alla Bretellina, vicino a Mesolita. Sì, più o meno sì. Dove c'è il campo sportivo? E beh? È lì vicino. Sono lì. No, io sono di fronte al grattacielo, di fronte ai geometri, alle scuole. Dove c'è la farmacia? Ah, c'è l'alberghiero e i geometri, di fronte. No, tutti e due alberghieri. Ah, tutti e due alberghieri. Prima c'erano anche i geometri, adesso è tutto alberghiero. Sto trovando, perché è grande quel caseggiato. Ma lì abitava vicino al Boreto, mi... Oh, Manuè. Ma lui rimane davanti. Grazie, sei di fronte a cosa praticamente? Piazza dei Turi. Eia, di fronte alle scuole, verso l'antenna mia che si vede. All'ultimo piano. Tu quando sei di fronte alle scuole, quelle gialline, guardi verso sinistra, in alto. E c'è l'antenna mia, dopo c'è quella vetrata bianca, io abito lì, proprio all'ultimo piano abito. E qui hai usato poco cavo allora, dai, ci arrivi bene, dai, a voglia. Si sentite anche la tua 50 sottofondo? Sta friggendo le zucchine. Ma sto uscendo con l'antennino piccolo del portatile mio. C'ho anche l'antennino fisso del PMR. Questo è un portatile, questo che sto usando, con la sua antenna, quella fine fine, 10 centimetri. E anche io stavo usando quello lì poco fa, poi ho usato un altro antennino, e comunque già mi avete sentito lo stesso. Andate, adesso ho messo l'antenna esterna però. No, ma io da qui prendo bene, benissimo. Mi Alghero, una parte di Alghero, perché c'ho il... Arriva forte qua. Quasi di fronte e mi copro una parte della zona di Alghero. Però tutti gli altri, Litri, Usini, Uri, quelli già li prendo, capito? Tutta quella zona là, già spara da qua, già. Ma io non ho mai detto né Alghero né Usini, ma ha bisogno di PMR chi vi, Manuè? Io sinceramente in PMR non li ho sentiti, in 27 ho sentito un paio l'altro giorno, di uno di Alghero e uno di Porto Torres. Da ci sono, ma non entrano mai, se no ci cadono troppo in basso, capito? No, troppo in basso. Ma il PMR praticamente è più superiore, diciamo, al 27 Ocla. Agita, grazie. Cosa hai detto, Tony? Ho detto, cadono in basso, ma veramente il PMR dovrebbe essere una cosa superiore della 27. Tu tutto fa brodo, ma capito, non entrano perché sennò cadono troppo in basso. Questa è una frequenza dei poveri. E curate. Ci fate il 27, entrano a rompere i guglioni e boh. Per il resto sono sempre tutti in ascolto, a criticare gli altri. Quello già sono buoni a farlo. Ma la careggio è secco, Sì, il chiuso a Careggio è buono. Lascia perdere, grazie a tutto il mondo e paese. Ci viene bisciato a ringrazio giù e forse era meglio. Invece bisciati sì gli altri. Vai, Emanuele. Appunto. Deve andare la fare giù e buh, senza pensare a chi si ridete nei lacri. Ma così, qua. È così, ognuno va da lì. Ognuno c'ha da ridere, anche se fa le cose giuste o sbagliate, c'hanno sempre da ridere. Vai tu me. E di Alghero me ne posso dare atto io, un'estranea che non conoscevo di Alghero, vabbè che l'ho conosciuta anche da dove lavoravano da noi, che ero secca, ma che dai. Niente, quando ho ricoverato l'ospedale, pensa al reparto cardiologia, questo è Alghero, la moglie contenti, ha portato un po' il inagliata ha fatto, ed ha mangiato tutto, è veramente buonissimo, guarda. Poi l'hanno dimesso, mi ha lasciato il coso, e guarda, mi fa piacere, mi sci di resto qua, e poi ti bevo un caffè a casa, quello che vuoi, ok, vabbè. Tutto pulito, lavato, quando sono uscito io, mi ha lasciato il suo numero di telefono. Sento Alghero, tanto a trovarlo, lo chiamo al telefono, lui se aveva viva voce, e ha detto, guarda che sono qua Alghero, mi dice, dove sì, così vengo, ti do quella roba là, se sì, tra la moglie, perché devi venire qua, e cosa deve fare? E lui adesso guarda, devo uscire qua, ok, ciao, sentiamo, sarà giubato, chi sarebbe che era io, ha giù visto il cassonetto, si sono fatto una mondezza. Per carità, figura di merda, allucinante, allucinante, e vabbè. Ti ripeto, tutto il mondo è paese, noi facciamo radio e boh, poi chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare rimane al suo posto, e che vuoi criticare, criticheggi, a me da una reci mentre dall'altro mi zesci, Doni, non me la fotti più da nessuno, io faccio quello che mi pare piace con la cosa mia, capito? A chi è pagata da me, non me la regala da nessuno, vai, grazie. Eia, vero, vero, e hai fatto bene. Per carità, ma io già li conosco abbastanza bene perché ne conoscevo due, parliano amici ed erano i due bilucciosi, non si trovano la mano in buccia che la macchina va pagato un caffè, per carità, però si bruzzizzavi tu, erano subito a bocca a bicchia. E per quello ho detto che sai come se la carese no, non esisti. Un rosinarese è così, secco. Ah, guarda, io ho tutti i miei ad Alghero e non sono così, capito? Ho tutti i miei ad Alghero. Voi prendete la guida telefonica, guardate Marti, e sono tutti lì. E sono tutte persone che hanno sempre dato, danno e non hanno problemi a chi è gente che va di là, capito? Quindi... E tutti i miei parenti, ho un sacco di amici, non sono così, e dipende dalle persone. Quando uno nasce guasto, non è che lo puoi addrizzare o grazia, è nato guasto e basta, non c'è niente da fare, vero Manuele? Se è nato così infatti, rimane così e muore così, cosa devi fare? E paccalo lo gabbo, fai prima. A me mi conoscete, carattere mio. Vedi il club che io frequentavo quasi nessuno, poi piano piano ci siamo riusciti a frequentarci e tu con Manuele, e ne punti nessuno venuto a me perché io cammino sempre in faccia alta, grazie a Dio non dovrei niente a nessuno. Quando vedo che c'è una mera marcia la metto a parte e non la calcolo più. Purtroppo le persone non sono soltanto Alghero, ma sono tutte le parti, ogni mondo è paese, dai. Anche a Sassi me ne sono, beh, dai che mi abiti. Anche qua già ce ne sono, non è solo Ivi, no? Già ne conosco Burinocchi. Va per rientro dopo che vado a fare l'insulina a una signora anziana. Claudio, riprendi. Una signora anziana c'è da fare l'insulina. Ui, ui, ui. Va bene, ma infatti, Tony, ma infatti è così. E così, tu mi hai conosciuto a me, no? Quindi, noi ci conosciamo 40 anni, siamo un po' persi di vista, ci siamo ritrovati, non è cambiato niente. Io ho un carattere molto, molto, come si dice, in certi momenti è buono, in certi momenti è cattivo, ma è cattivo quando mi fanno diventare cattivo. Sennò io sono abbastanza umile in tutto e per tutto. Do a chi necessita, do una mano a tutti, non ne ho problemi, capito? Non cammino a testa alta, cammino guardando il cielo, capito? Perché nessuno mi può dire niente a me. È che qualcuno pensa di essere più meglio degli altri, quindi è chiaro che ti criticano e ti fanno, però bisogna lasciarli dire, lasciarli fare, tu dici no, fate il beccio. Vai Emanuele. Io così, ho qua, la galleria, boh, perché sennò dopo fanno peggio sì, ognuno dice la giuria. È così, infatti. Vai Tony. Scappa. No, ma io sono contento diciamo di non frequentare con Claudio, perché ripeto, è una vita che non ci sentivamo più. E mi fa piacere perché ha visto anche il mio carattere attualmente com'è. E questo, cioè, mi fa piacere perché non vorrei che un domani qualche altra persona potrebbe criticarmi, ma a me non c'è niente da dirmi, Claudio mi conosce, che tipo sono. Certo, io do, diciamo, poi quando uno dice che pulirmi nel culo oggi, domani, dopo domani, alla fine dico, pigliate nel culo, cioè alla fine esplodo, che dico basta, non ce la faccio più, capito? Quindi sono il tipo che io do tutto agli amici, la verità. Gli amici diciamo sono pochi, si può secondare, detto Claudio, poc'anzi pure sul palmo della mano, che è anche troppo, 5 dita comunque. Pochi ma buoni, tipo fratelli, boh, basta, non dico altro, perché intanto quello che sembra più bravo poi te la mette in culo, perché me ne sono visto da poco cos'è successo, no, per carità. Lo sbaglio è mio più grande. Sì, ma infatti bisogna stare attenti. Il proverbio cosa dice? Vai con chi vai, no, stai attento con chi vai e ti dirò chi sei, una cosa del genere. Quindi io ho sempre l'atto e mi hanno sempre contraccambiato, la verità, però questa storia di la bocca a me mi piace bocco. Io sono di quelli che mi difendo fisicamente, verbalmente, già hai visto, no Tony? T'ho dimostrato davanti, quindi no, non ce n'è problema. No, io se ti devo dire una cosa te la dico e non ti muoio nessuno. È inutile che vai a riportare, a dire, a fare, a far casino, a farci la media, no, non vanno bene queste cose. Se uno è uomo te lo deve dire in faccia, oh, mi stai sul cazzo, sei un coglione, sei quello, sei quell'altro. Basta, no, non ci frequentiamo più, ciao, arrivederci. Ma non è che devi stare punendo i tisani, a vendi, punendo i vogo, raccontando i vauri. Aiuto, dai, finiamo. Siamo uomini, per favore. E allora, Manuè, mi sa che se zio Tonino non fa nulla, sabato ci organizziamo qualche cosa. Sei bella giornata. E per me va bene, non c'è problema. Basta che un giorno prima, l'ho detto un giorno prima, così almeno si fa il sabato. Per me va benissimo, al 1000 per 1000, sempre il tempo permettendo, poi al limite, se piove un casino, non per altro, perché, vabbè, al limite un poco non si va, si mangia la vento, ma non si faccia un'altra cosa, però per me sabato è ok al 1000 per 1000. Lavoro da fare si fa, capito, non c'è problema, adesso vediamo, il tempo è un po' così, è un po' così. Adesso oggi è andata quasi bene, domani dovrebbe essere peggio, mercoledì lo stesso, giovedì addirittura c'è un temporale, così v'è scritto, buh, vediamo. Vediamo, dai, già siamo qua. Scappa. E certo, Manuè, venerdì giustamente. Ci pronunciamo. Poi lo hai detto Claudio, che se piove si può fare mattessi, poi vabbè, se ti sporchi la macchinuzza prego io a prenderti. Agetta che mi gratto, se no non riesci a ridì, cazzo che non me ne lavaggio. Se ti voglio una patata del ferro, mio cazzo, e me la prendiamo in braccio, ma per carità, cazzo. A chi la macchina l'ha fatta ben bruttarsi, quando si brutta girava. Vabbè, Già mi hai capito, no? Sì, già ti ho capito, ma pure amari. Pure amari. Guarda, io con un pezzo di strada così come hai tu, io ce l'avevo a Sorso. A Sorso. Proprio. No, perché io passavo lì davanti alle Magnori e poi si gira a destra, c'è una strada bianca che ti portava all'impianto. Cazzo, capitava sempre, mi lavavo la macchina di venerdì, la tenevo sabato, poi magari la domenica ero di servizio. Cazzo, il sabato notte pioveva, cazzo. Minchia, poco mi incazzavo, ma non mi incazzavo perché mi stavo sporcando la macchina, perché cazzo mi girava le balle, capito? Che arrivavo lì e la macchina era pulita, ma io mi ho visto, cazzo, tutto vango, un pantammo. Allora come entravo all'impianto le davo un'altra sciacquata, capito? Quindi non la dimmo la carriera bianca io, nel modo più assoluto. Va bene così, le macchine sono fatte per camminare in strada, no, paura. Allora dibigli l'aereo e non te lo imbrutti mai. Anche se è vero. E lo so, è quel pezzo purtroppo che se ogni anno è così non lo aggiustano mai. Non è guarda, se fosse andata via l'avrei, guarda, 100 euro. Alla meccanica una razzicata fino a zero. Purtroppo no, non mi compete. Non mi compete perché non me ne ha fatti nulla. Perché qua io adesso c'è un altro problema, là, a parte la veranda che è un colabrodo. Adesso mi sta entrando acqua come è piovuto dal cassettone e arriva dentro a casa, e se mi rovina l'attrezzatura sono cazzi suoi. E che cazzo, adesso basta. L'altra volta gli ho detto, guarda Vito, sta entrando l'acqua qua. Ha guardato che fuori il silo intorno, mi sbatte lì, giustamente, mi penetra dentro. E bisogna fare questo, quell'altro. Se sono, andati per i cazzi loro a farsi l'estate come hanno voluto, qua se ne sono fregati. E vabbè, è l'inverno di nuovo così. Ma io ci ho pagato diversamente. Anche me non c'è il balle bene. No, ma è un disastro così, che è un peccato quella casa, è bellissima, molto bella, accogliente. È un peccato, c'è un bel giardinetto, cazzo, quella verandina lì. Ti ho detto, cioè se ti metti d'accordo, spendi 2 lire in 2 o 3 volte ti riscala dall'affitto, cazzo, cioè non si può tenere così, si fa un bel lavoro, una cosa fatta bene, intanto è roba loro, capito? Quella strada lo stesso fa schifo, cazzo, già mi ho un motocarro di ghiaia, tappi tutti i buchi, e va meglio, no? Cammini meglio, cazzo, vedo ogni avvocio, si sgaggi dritto da gatta ne muti. Claudio, allora, io ho 10 anni qua e ho consumato 2 camion di ghiaia, perché quasi per girare da me, sulla destra, vedi c'è una rientrata, c'è rimasta poca ghiaia. Là con la carretta io riempivo tutti i buchi, io e mio figlio, ma adesso quanto altro l'abbiamo fatto. Loro passano veloci e la ghiaia parte, è così, la pioggia track si rifà sempre. Quindi, la vorrebbe razzicato e asfaltato, l'unica soluzione, non ve altro rimedio. Se non fatta cemento, se non fatta cemento, fai vialetta a cemento come c'ho io, stai tranquillo, rete elettrosaldata sotto e via. Chiami la bettomiera, io ho 7 metri cubi, una bettomiera intera, capito, di coso, di diana. E metti la rete retrosaldata, tutto bello, fatto, pulito, ordinato, e stai tranquillo che non ne esci con il coso, come si dice, con l'acqua. Però va fatto d'estate, non d'inverno, e va fatto bene, capito, con tutte le calatoie per scorrere l'acqua, secondo me non rimane manco un po' giù d'eva, rimane tutto, c'è la calatoie, la canaletta, l'acqua la porta via. Deve essere fatto bene, no? A culo di scimmia, no? Ma qua entro e esco le persone, fare quel lavoro deve stare minimo un giorno senza entrare con la macchina, claro. Un giorno? E allora? Un giorno. Ci ho rimasto una ghida io, senza entrare, quando abbiamo fatto tavoloni e si camminava a piedi sino alla casa, le macchine fuori, se no non va bene. E con tutto che è stato fatto d'estate, la pompa attaccata ogni giorno, io andavo e innaffiavo, buttavo acqua sopra, è diventato un dolce baribredda. Sì, ma qua non farò niente. E il fattore del tuo discorso è bello, però gliel'ho già fatto io una volta. No, l'affitto non lo paga intero. No, ma intanto qua dobbiamo tutto aggiustare E intanto i mesi passano, gli anni passano, e che cazzo di male sono sempre io. Cazzo, gli anni passano, i lavori vanno fatti e fra poco te ne gaggi tutto in alto. Cazzo, boh. Cioè vengo io, ve lo trovo a Vittorio e glielo dico io. Cazzo, Vittorio, stavo fumando, cazzo, mi sono fatto la doccia sotto quella veranda, ma la vuoi buoni a posto o non la vuoi buoni a posto, cazzo? Sì, c'è te, dobbiamo aggiustare tutto. La aggiustiamo, adesso però, no quando me ne gaggi in alto, vado gabbo, no? Ho capito, boh. Guarda, sarei l'uomo più felice del mondo se mi cade tutto addosso, cioè addosso qua, perché io chiamo anche la mia Sardegna. Allora, ne escono delle cose fuori, guarda, allora non gli conviene proprio, perché là passano molti guai. Vabbè, penso proprio di sì, ma ci mancherebbe altro. Ok, dai, Emanuele, riprendi tu, io vado a vestirmi, che sono già le 7:30, così mi porto il cane, prima che faccia buio. Se ci siete, ci sentiamo dopo, ok? Ok, Clara, buona passeggiata col cane. Dai, in caseggio ci sentiamo anche più tardi. Vai, Tony. Già accendo quello che c'ho in cucina, ho messo il portatile io. Già vi sento, se chiamate, poi entro subito in camera e parlo con questo, non c'è problema. Ok, Claudio. Mi ha fatto piacere, dai. Abbiamo sempre un po' di qualche oretta. Ci sentiamo la prossima, la passeggiata col cane. A più tardi. Gappa, gappa, se ci siete entro dopo, ok? Tanto porto il cane e poi ritorno. A dopo. Yeah. Ok, al 100%. Avanti, Manuè. Allora, se date le voltate. No, sto usando quello lì. Quello che c'ha. Sono il cavalletto io adesso. Ti stavo dicendo prima, devi guardare sul menu per vedere quanto c'hai di cose di vati di uscita. E dove si entra col menu? E dove si entra? Vai sul menu. E dove si entra? Non ci sto menu qua, dove devo andare? Vai la giga. No, la capiti, Manuel. Qualche giorno che vieni qua, lo vediamo. Passa la giga, non visore luce di chi. Non ho capito. Secondo che tasto tocco? Sì, c'è tutto a casino. Vabbè dai, quando si guarda un giorno, sono i capobesi, mi cazzo e rifascio. Cazzo subito, dove mi rifascio? Allora pazienza non hai tu. E poca mia pazienza, Manuel. Cazzo di queste cose qua vogliono fatte con calma. E certo, che sì. Anda bene, dai, mi preparo qualcosa anch'io. Ci sentiamo dopo, Manuel. Sì, tanto mi faccio una spazzolata sul 23 e poi chiudo anche io. Però accendi dopo me. E tu manda un messaggio quando sei in radio, già ci sentiamo. Sì, gente, sul 23. Ok, a dopo. Ciao Manuel. E buon carica. Sì, contro cambiato al 100. Ciao. Fuggiti, gente. Chi è? Non ti sento. Grazie, io sto andando a portare il cane, loro sono sul 23, già ci sentiamo dopo. Va bene, ok.